Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Electrolux, mercato in calo a Porcia, gli esuberi sono 76 e 120 contratti a termine non saranno rinnovati. I rincari energetici mettono a rischio oltre 17.000 aziende artigiane, aumenta il ricorso al fotovoltaico. La finanziaria regionale illustrata in prima commissione, la legge di stabilità supera i 5 miliardi più introiti dalle tasse. Di nuovo in fuga, senza luce e riscaldamento, molti ucraini lasciano il paese sotto le bombe a Ugovizza, punto di accoglienza. Sala Trifkovic addio, a Trieste entrano nel vivo i lavori di demolizione, presto la struttura sarà solo un ricordo. Ad Aquileia gli scavi degli ambienti delle terme ospitavano grandi vasche, mosaici e fontane e il calidarium destinato ai bagni caldi. Metà friulano, metà africano, c'è un po' di regione ai mondiali di calcio in Qatar con Jean-Charles Castelletto, nazionale camerunense. 7:19 minuti di martedì 29 novembre. Buongiorno da Eva Ciuc e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo. Il cielo è coperto sulle zone montane, nuvoloso su pianura e costa. Le temperature registrate alle 6, Trieste 6 gradi e mezzo, vento a quasi 30 km orari da est-nord-est, bora moderata. A Udine 5 gradi e mezzo, a Pordenone 5 gradi, a Gorizia 4 gradi e 5 decimi. A Tolmezzo 3 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 0 gradi, sul Piancavallo meno 1 grado, a Tarvisio e Sappada meno 1 grado e 5 decimi, sul Monte Zoncolan meno 4 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari meno 6, sulla costa Grado e Lignano 7 gradi. Le previsioni, oggi il cielo sarà coperto sulla zona montana, nuvoloso su pianura e costa. Sui monti fino al pomeriggio possibili deboli piogge o nevicate oltre i 500-700 metri circa. Soffierà bora moderata su pianura orientale e costa, in intensificazione verso sera con raffiche sostenute specie su Carso e Trieste. Electrolux taglia. Il quadro delle eccedenze negli stabilimenti italiani del gruppo è stato presentato ieri ai sindacati al tavolo convocato a Milano. A Porcia gli esuberi sono minori delle attese ma si sommano ai contratti a termine che non saranno rinnovati. Il mercato è in calo, i volumi sono diminuiti e l'Electrolux corre ai ripari con ingenti tagli al personale nei suoi stabilimenti in tutto il mondo. In Italia sono 222, di cui 76 a Porcia. È quanto emerge dall'incontro con i sindacati che si è tenuto nella sede di Solaro, in provincia di Milano. Di questi 76 esuberi annunciati dall'azienda, 40 sono impiegati, di cui 5 degli uffici di Pordenone, e 36 sono operai, 10 del magazzino Ricambi. Come ammortizzatore, l'azienda mette sul piatto 2 anni di NASPI e un incentivo all'esodo. L'obiettivo è che le uscite avvengano entro i primi 3 mesi dell'anno prossimo. Per i sindacati la discussione inizierà o a fine dicembre o all'inizio del 2023, con un incontro nella sede di Porcia per capire come saranno configurati i tagli. Per loro le uscite dovranno essere su base volontaria e incentivate. Gli esuberi sono più bassi di quanto si temesse, spiega Gianni Piccinini della FIM CISL, ma la forza lavoro cala comunque in modo evidente perché vanno ad aggiungersi ai circa 120 contratti a termine che, con la fine dell'anno, non saranno rinnovati. I volumi della produzione di quest'anno, a causa della crisi, si sono contratti in modo notevole e sono lontani i tempi in cui, nello stabilimento, si produceva intorno al 1 milione di pezzi. Era il 2021, quest'anno si sono raggiunti 685.000 pezzi, per il 2023 se ne prevedono 720.000. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono circa 17.500 le aziende in Friuli Venezia Giulia a maggior utilizzo di gas ed energia elettrica e pertanto a rischio di chiusura per i rincari energetici. E quanto risulta da un'indagine condotta dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese illustrata ieri a Udine. Di fronte a tale scenario queste aziende devono tendere a trasformarsi in autoproduttori di energia, avvalendosi anche della competenza delle oltre 2.000 imprese imprese artigiane che in regione sono attive nel settore dell'impiantistica, con quasi 6.200 addetti. Nei settori produttivi gli impianti fotovoltaici sono più che sestuplicati in un decennio, passando dai 1.083 impianti nel 2010 agli oltre 6.303 nel 2021. In media circa il 7% delle imprese regionali oggi possiede un impianto fotovoltaico. Ma sentiamo Nicola Serio dell'Ufficio Studi di Confartigianato Udine. Venezia Giulia come rinnovabili ha una percentuale che è comunque superiore al dato nazionale, è un 43,8% rispetto a un 40% nazionale. E il fenomeno poi anche del fotovoltaico è comunque un fenomeno abbastanza recente, c'è stata una forte crescita di questo tipo di installazioni. Un bilancio regionale da record, quello presentato ieri dalla Giunta alla prima commissione del Consiglio regionale. La manovra finanziaria stanzia 5 miliardi e 52 milioni di euro, quasi 300 milioni in più rispetto alla precedente manovra. Di fatto è l'ultima legge di stabilità di questa legislatura e prevede un aumento degli introiti dalle tasse del 2,5% per un totale di 8 miliardi 47 milioni. Una cifra mai così alta questa nelle previsioni di entrate dal 2018. Per le opposizioni questa potrebbe essere l'occasione giusta per abbassare le tasse, soprattutto l'IRPEF, ma il disegno di legge al momento non prevede tagli. Il CALI, il Consiglio delle Autonomie Locali, ha approvato la manovra che ora passerà al vaglio delle commissioni consiliari e poi comincerà la discussione vera e propria in aula dal 13 al 16 di dicembre. Nuovo incontro a Palma Nova tra l'assessore regionale alla salute Riccardi e i sindacati del comparto sanità UIL, FPL e NURSIND, con all'ordine del giorno le modalità di erogazione dell'indennità di pronto soccorso in applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro firmato il 2 novembre scorso. In ballo ci sono oltre 1.800.000 euro da ripartire tra le aziende sanitarie. I sindacati hanno chiesto che vengano equamente distribuiti sulla base del personale in servizio presso le strutture interessate e degli accessi ai vari pronto soccorso, estendendo l'indennità anche agli operatori dell'emergenza territoriale. Serve per i sindacati verificare l'esatto numero dei beneficiari che, secondo una prima stima, sono circa 950 tra infermieri, OS e autisti. La proposta dei sindacati punta ad erogare una cifra una tantum con degli aggiuntivi in base ai giorni lavorativi e agli accessi al pronto soccorso. La Regione ha assicurato che verificherà i numeri e poi il tavolo verrà aggiornato per arrivare alla sigla dell'accordo con anche le altre sigle sindacali regionali presenti. Con le infrastrutture energetiche in Ucraina distrutte dai bombardamenti russi e con l'inverno che avanza potrebbe verificarsi una nuova ondata di profughi ucraini verso l'Europa occidentale, Italia compresa. Intanto chi nei mesi scorsi ha già trovato rifugio nel nostro paese sta ora provando a ricostruirsi una vita. I valichi di frontiera del Friuli Venezia Giulia ci diranno tra poche settimane se il flusso di sfollati dall'Ucraina riprenderà a farsi consistente con l'arrivo dell'inverno. Ma chi è già arrivato in Italia mesi fa chiede che sia potenziato il meccanismo dell'accoglienza, incapace, dicono, di farsi carico delle necessità quotidiane a 360 gradi. Oksana è bancaria, ha scoperto in Italia di essere incinta. Ilga è graphic designer, vivono in un centro di accoglienza a Pontebba. Visto che adesso sono in attesa, chiedo la possibilità di darmi una mano a cercare un appartamento o una stanza privata, perché convivere con gli altri presso la Caritas è un po' difficile. Tanti problemi riguardano supporto psicologico, supporto anche il mentale, perché ci sono tanti problemi per bambini integrare in questa scuola, non capiscono gli insegnanti, i mediatori e anche supporto psicologico in scuole per bambini. Le incontriamo nello spazio di supporto allestito da UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, a Ugovizza, finanziato grazie a una raccolta fondi di dipendenti Enel e al sostegno di Enel Cuore Onlus. Michele Crisostomo, presidente di Enel. Questo centro d'accoglienza rappresenta davvero un punto di riferimento anche come modello di guardare all'immigrazione e nella prospettiva dell'accoglienza. Fabio Scoccimaro, assessore regionale all'ambiente e all'energia. Sembra adeguato che chi effettivamente qui vuole stare e non soltanto essere forma passiva ma anche dare un contributo, lo può fare in maniera regolare, e tutto quello che sarà un aiuto all'immigrazione regolare noi come regione faremo certamente la nostra parte. Ugo Vizza, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. A 10 anni dall'accordo Stato-Regioni del 20 dicembre del 2012, il Centro Balducci di Zuliano organizza un evento formativo pubblico e aperto dal titolo Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera. Alle 17.30 si parlerà di come un servizio sanitario universale deve saper intercettare il bisogno e la domanda di salute anche nei soggetti ai margini del sistema, in un'ottica di sanità pubblica e di solidarietà sociale. E torna a Udine il piano freddo del comune per aiutare chi fra i senza tetto accetta di andare a dormire al coperto. Mobilitata la Croce Rossa, ma sul fronte è attiva anche la Caritas. Il dormitorio Il Fogolar di via Pracchiuso a Udine, gestito da Caritas e Comune, coi suoi 23 posti è sempre al completo, fa sapere il suo responsabile Alberto Barone, che annuncia di aver allungato gli orari di apertura dalle 17 alle 9 del mattino per far fronte al periodo invernale, stabili per la gran parte gli occupanti della struttura, italiani e stranieri, gli altri entrano a rotazione in base ai posti che si liberano ogni giorno, spesso però non si riesce a far fronte alle richieste, sottolinea Barone, che con l'arrivo del freddo auspica una soluzione condivisa con i servizi socioassistenziali e gli enti del privato sociale per dare risposte a un prevedibile aumento della domanda. Gli spazi in città per accogliere i senza dimora, secondo Barone, sono comunque insufficienti, anche d'estate. Il dormitorio invernale da 60 posti di via Marangoni non c'è più, ma le situazioni di bisogno intercettate dai centri di ascolto e dall'unità di strada operativa tutto l'anno sono in aumento, segnala ancora la Caritas. L'assessore all'assistenza sociale del comune Giovanni Barillari annuncia intanto di aver già preallertato la Croce Rossa per l'attivazione di una decina di posti di asilo notturno per l'inverno nel quartiere generale di via Pastrengo, dove è già attivo un servizio docce e lavanderia. Le unità di strada dell'organizzazione ripartiranno a giorni col monitoraggio del territorio, ma dai primi sopralluoghi non si segnalano nuove persone all'addiaccio. Una ventina di volontari offriranno come sempre a chi è per strada coperte, bevande calde e supporto psicologico, rimarca la presidente Cristina Ceruti. L'obiettivo è agganciarli per capire poi se si possono aiutare in altro modo, aggiunge, confermando che anche l'impegno di Croce Rossa di fronte alle nuove povertà è in costante aumento. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Sala Tripkovic, addio a Trieste, nel piazzale accanto alla stazione. La pinza meccanica ha incominciato ad aggredire la facciata, quella con il sipario dipinto. In una settimana non resterà più nulla dell'edificio e si potrà procedere alla riqualificazione dell'area di accesso al Porto Vecchio. Un pezzo di Trieste che se ne va. Sotto i morsi della pinza meccanica, tra calcinacci e pezzi di muro che cadono, è iniziata la fase 2 dell'abbattimento della Sala Tripkovic. Nei giorni scorsi l'edificio di Piazza della Libertà era stato svuotato togliendo arredi e impianti elettrici, ma anche mappato per ottenere i rilievi da utilizzare in futuro per una ricostruzione virtuale. Ora si passa alla demolizione vera e propria, a partire dalla facciata. Le operazioni, alle quali era presente anche il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, andranno avanti per i prossimi giorni, mentre nel fine settimana è previsto l'abbattimento anche della parte più vicina ai silos. Secondo i piani, entro il 31 gennaio il cantiere sarà chiuso, ma il grosso dei lavori sarà già stato fatto entro la fine dell'anno. Nata come autostazione negli anni 30, la Tripkovic fu convertita in teatro negli anni 90 per volontà del barone Raffaello de Banfield, al fine di ospitare gli spettacoli del Teatro Verdi, all'epoca in fase di ristrutturazione. Nel 2017 è stata chiusa a causa di gravi problemi strutturali e ora, dopo varie discussioni, è stato deciso il suo abbattimento, nel quadro di un piano più ampio per la riqualificazione dell'area. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Le luci del Natale si sono accese ieri sera a Trieste, non solo in Piazza Unità, ma anche nelle vie del centro e in alcune aree di periferia. Gli alberi di Natale in città sono in totale 84. Quest'anno resteranno accesi insieme agli addobbi luminosi per 50 giorni, anziché 70 come l'anno scorso, con spegnimento la sera un po' prima del solito alle 23 in un'ottica di risparmio energetico. Durante il periodo natalizio Trieste ospiterà 115 eventi all'aperto. L'allestimento delle luminarie è costato 450.000 euro. Due nuove perle delle grandi terme romane di Aquileia, costruite nella prima metà del IV secolo d.C., sono state portate alla luce negli ultimi scavi fatti dalla missione archeologica dell'Università di Udine. Vasche, mosaici, fontane e un'area destinata ai bagni di acqua calda sono stati portati alla luce nelle grandi terme romane di Aquileia negli ultimi scavi fatta dalla missione archeologica dell'Università di Udine. Due i settori del grande edificio termale sul quale si sono concentrate le indagini, quello a sud-est e quello a ovest, in un settore nuovo. La campagna di scavi è stata condotta da un gruppo di ricerca del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale. Nelle ricerche hanno partecipato 25 studentesse e studenti dei corsi di laurea triennale in beni culturali e magistrale in archeologia e culture dell'antichità e della scuola interateneo di specializzazione in beni archeologici. Nel settore sud-orientale è stato scoperto un ambiente di oltre 200 metri quadrati che ospitava grandi vasche e forse fontane. L'elemento più rilevante è la poderosa fondazione dell'ambiente in calcestruzzo e grossi frammenti di colonne reimpiegate. Sulla struttura spessa oltre 1,60 m poggiavano vari strati di mattoni intorno a una vasca circolare di 8 metri di diametro. Nel nuovo scavo, nel settore occidentale, che ha interessato un'area di circa 150 metri quadrati, è stata messa alla luce quasi completamente l'ampia abside del calidarium, parte delle terme destinata ai bagni in acqua calda e di vapori, con cui l'edificio si concludeva. Aquileia, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. A Brugnera, la startup CTSH2, che lavora per lo più fra Stati Uniti e Corea del Sud, ha messo a punto un brevetto per produrre idrogeno verdissimo, ideale per le comunità energetiche rinnovabili. Il progetto ha conquistato la giuria del premio Vivere a Spreco Zero, che consegna oggi a Bologna l'Oscar della sostenibilità. I vincitori sono stati selezionati nella speciale categoria Acqua e Energia da una giuria di esperti presieduta da Andrea Segre. Nell'ambito della campagna di prevenzione degli infortuni in agricoltura, inserita tra gli obiettivi del Piano Nazionale Agricoltura, si terrà a San Vito del Tagliamento il primo dei due incontri dedicati alla salute e sicurezza in agricoltura organizzati dall'azienda sanitaria Friuli Occidentale presso la Sala Convegni Ponte Rosso Tagliamento alle 17. L'obiettivo è offrire agli operatori agricoli sensibilizzazione, formazione e confronto aperto sulle tematiche della sicurezza sul lavoro in agricoltura contenute nel testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Tra le attività del Comune di Udine finalizzate alla comunicazione dello sviluppo sostenibile, il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine invita oggi a Il mare scomincia a Casetò, Il mare comincia a casa tua. Conferenza in Friulano di Paola Del Negro, direttrice generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia Sperimentale OGS, alle 17.30 nel Salone del Popolo a Palazzo D'Aronco a Udine. Il 2022 è inserito nel decennio della scienza del mare per lo sviluppo sostenibile proclamato dalle Nazioni Unite e dall'UNESCO con l'obiettivo di mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile al raggiungimento dell'obiettivo 14 dell'Agenda 2030, ovvero l'utilizzo e la conservazione in modo sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine. Cultura e spettacoli. Iniziamo da un evento strettamente legato all'attualità che riguarda da vicino centinaia di lavoratori a Trieste proprio nel giorno in cui è in programma un nuovo tavolo ministeriale sulla vertenza Wärtsilä a Roma. Dalla fabbrica macchine di Sant'Andrea alla Wärtsilä Italia, una serata dedicata a una grande storia di grandi uomini e grandi motori su Le Maniche, uno spettacolo interpretato da Paolo Rossi e Stefano Dongetti, promosso dal Comune di Trieste al Teatro Miela di Trieste. Alle 19.30 la regia è di Franco Però, che aveva chiesto allo scrittore Pino Roveredo di scrivere un testo a sostegno di una città mobilitata per il proprio futuro. Il risultato invece è stato il seguente, come ce lo spiega lo stesso Pino Roveredo. È venuta fuori una storia di lavoro agli inizi della fine anni 60, anni 70, raccontando il mondo del lavoro da quella volta. Però il soggetto è che io, dopo 32 anni di astinenza, mi incontro con un bicchiere di vino che continua a tentarmi, che continua a interferire sul mio cambiamento, ed è un discorso tra me e lui, raccontando la fatica della fabbrica, la fatica delle lotte operaie, tutto questo con dei pensieri di Marchesi, di Calvino, e con delle canzoni. Questo discorso racconta anche del mio cambiamento. C'è dunque la sua vita, la sua esperienza, la lotta per i più deboli, ma c'è sempre tanta ironia. Quei pezzi che raccontano anche con una leggerezza tutto quel percorso, sempre sfidando questo bicchiere di vino che mi vuole come 32 anni fa. Sul palco c'è Paolo Rossi e l'operaio che racconta le sconfitte del mondo del lavoro. Fino ad arrivare a questa speranza della grande dottore, che sembrava il sole che sorge, forse una vita nuova, e poi invece, vabbè, il risultato non è quello propriamente voluto. Qual è il messaggio di questo spettacolo? Perdere un posto di lavoro oggi è la fine, è una cosa che dobbiamo tenere coi denti, proprio per dare una concreta speranza al nostro futuro. E parlo dei figli, parlo di tutto quanto. Arriva in 6 teatri del circuito ERT l'Isistrata di Aristofane nel libero adattamento e con la regia di Ugo Chiti per l'Arca Azzurra, un testo classico interpretato con occhio contemporaneo ed insieme rispettoso dell'originale. Protagonista dello spettacolo è Amanda Sandrelli, in scena con gli attori della storica compagnia toscana. Le prime due tappe oggi e domani al Teatro Comunale di Monfalcone alle 20.45. Il vincitore della seconda edizione del premio Umberto Saba Poesia, Milo De Angelis, sarà a Trieste per un incontro dedicato a Linea Intera, Linea Spezzata, che è anche il titolo della raccolta pubblicata nel 2021. De Angelis è stato premiato per la continuità dell'impegno poetico, per la moralità profonda e non negoziabile della scrittura, per la qualità della sua poesia. L'incontro si terrà nella sala Bobby Baslen di Palazzo Gopcevic a Trieste alle 18. E andrà in onda questa sera alle 19.30 su TV Capodistria il documentario intervista di Maurizio Beccar allo scrittore Diego Marani, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, sul tema l'Europa delle lingue e delle culture e la ricchezza delle diversità, ovvero come possono convivere identità diverse in territori oggi condivisi come l'Unione Europea o in realtà per lungo tempo di confine come Trieste. Il documentario è stato realizzato dalla cooperativa Curiosi di Natura ed è stato finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia. Il circolo del jazz Thelonious presenta al bar libreria Knulp di Trieste alle 20.15 il concerto Super Sense con uno dei nomi emergenti del jazz americano, la trombettista e compositrice Steph Richards. Il responsabile del Centro Studi Pasolini della Cineteca di Bologna, Roberto Chiesi, introdurrà la proiezione del film di Pasolini Porcilla Cinema Zero alle 20.45. Nell'occasione presenta il suo ultimo libro, Pasolini, il fantasma del presente. Il regista Giovanni Basso, al suo esordio dietro la macchina da presa, presenta Mindemic al Visionario di Udine alle 20. Il film è interpretato dall'attore Giorgio Colangeli per la prima volta nella sua carriera, protagonista assoluto di un lungometraggio di finzione. Ora allo sport, dopo le tappe di San Marino e di Spital an der Drau in Austria, la fiamma, iconico simbolo di pace dei valori sportivi della 16ª edizione Sport Invernali su neve e ghiaccio di EIOF 2023 è arrivata in Friuli Venezia Giulia. La cerimonia di accensione della torcia ieri a Tolmezzo a portarla alcuni atleti dello Sci Club della Carnia. La Carnia con i suoi poli sciistici, ha ricordato il presidente di EIOF Maurizio Dunhofer, sarà uno dei tre cluster dove si svolgeranno molte gare sportive in calendario dal 21 al 28 gennaio prossimi. Oltre 400 atleti agonisti da 30 nazioni europee si sfidano in 5 diverse discipline sportive olimpiche invernali nelle località di Fornia Voltri, Sappada, Zoncolara, Vascletto e Forni di Sopra. Il nostro intento, ha detto Dunhofer, è quello di coinvolgere il maggior numero di persone, giovani e non, delle varie comunità della Carnia e della regione. Il presidente del CONI Friuli Venezia Giulia, Giorgio Brandolin, ha auspicato che la passione per lo sport di queste terre venga espressa nel miglior modo possibile alle centinaia di giovani atleti e ospiti italiani e stranieri. Sicuro che tra loro ci saranno anche protagonisti poi ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In Friuli Venezia Giulia è ai mondiali di calcio in Qatar e non lo sapeva. Gioca infatti con le gambe di Jean-Charles Castelletto, della nazionale camerunense, figlio di una donna africana e di un friulano di Udine. Nonostante l'assenza dell'Italia, ai mondiali di calcio in corso in Qatar, almeno un pezzetto di Friuli c'è e sta facendo un'ottima figura. È quello che si porta nel cuore il difensore del Camerun, Jean-Charles Castelletto, migliore in campo nella partita persa con la Svizzera e autore del primo gol nel pareggio di ieri con la Serbia. Castelletto gioca nel Nantes, in Ligue 1, la Serie A francese, e ha esordito in nazionale nel 2017 dopo aver fatto parte di tutte le selezioni giovanili transalpine. È nato infatti proprio in Francia nel 1995. Figlio di una donna camerunense e di Carlo, partito da Udine da bambino assieme alla famiglia. Mio padre, ha spiegato Castelletto, mi ha raccontato spesso delle sue radici. Se c'è qualcosa di friulano in me, dico la grinta, la stessa con cui oggi fa esultare tre paesi. Mi sento francese perché sono nato in Francia, mi sento italiano perché papà è friulano, mi sento camerunense perché la mamma è di Yaoundé. Daniele Letti, GTGR Friuli Venezia Giulia. Incetta di titoli per la pesistica, Pordenone ai campionati italiani Under 17 di Biella per il club, presente con 8 atleti, è arrivato il primo posto sia nella classifica squadre maschile che in quella femminile, oro per Alessandra Pacetta nella categoria fino a 45 kg. Il metallo più prezioso è andato al collo anche di Paride Dragna, categoria 55 kg, 100 kg sollevati nell'ultima alzata di slancio. Terzo titolo italiano dell'anno poi per Sara Dalbola, 13enne di Cordenosa, ha centrato il titolo Under 17 con 80 kg di strappo e 100 di slancio, ossia con prestazioni con le quali ha surclassato perfino i colleghi maschi. Solo una coetanea statunitense ha ottenuto sinora nel mondo gli stessi risultati. Il prossimo happening giovanile sarà al Pala Crisafulli di Pordenone il 17 e 18 dicembre con gli italiani Under 13 in gara, 130 giovani atleti provenienti da tutta la penisola. Nel frattempo due pesisti pordenonesi saranno in gara ai campionati del mondo assoluti a Bogotà in Colombia dal 5 al 12 dicembre. Mirko Zanni, portacolori del GSR Esercito e della pesistica Pordenone, già bronzo olimpico a Tokyo nel 2021, sarà in lizza nella categoria 73 kg, mentre Cristiano Ficco, che appartiene alle Fiamme Azzurre e alla High Quality Power di San Giorgio della Ricchinvelda, salirà in pedana nella 89 kg. I mondiali di Bogotà sono la prima gara di qualificazione olimpica e aprono quindi la lunga strada verso Parigi 2024. E la pallamano Trieste ha comunicato ieri che l'atleta italo-cileno Luciano Scaramelli è da ieri in prova agli ordini di coach Freddy Radojkovic. Il terzino, classe 2002, cresciuto nel club balonmano Esca in Spagna, sosterrà gli allenamenti nel gruppo squadra fino a venerdì. Sono le 7:45 minuti e 30 secondi, apriamo la nostra rassegna stampa, cominciamo con il piccolo di Trieste, questa è l'apertura, l'ex Olcese diventa polo della scienza, piano da 20 milioni, la fabbrica tessile chiusa da 35 anni verso il rilancio nell'operazione OGS, ex Exit e imprenditori privati. In taglio alto la fotonotizia dal titolo l'italiano in costituzione, in un DDL il senatore di Fratelli d'Italia Menia chiede il riconoscimento ufficiale, la nostra lingua va difesa da globalizzazione e localismi. La cronaca nel colonnino di destra, motori Wärtsilä bloccati, Fincantieri pensa a penali maggiorate, l'interessamento del colosso tedesco per lo stabilimento di Bagnoli nasce dalla volontà di espandersi in Italia, è ora all'esame del governo il business della difesa, le trattative in piedi tra Rheinmetall e Leonardo. E poi ancora gli altri titoli di cronaca nel colonnino. Nino, dichiarata fallita la Comar Costruzioni al lavoro nell'ex fiera, poi luci, cometa e musica in Piazza Unità, si respira già il Natale e rissa durante il match Sontina San Giovanni, in arrivo la denuncia. Energia e Covid, la sanità costa 60 milioni in più, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine sull'attesa della regione del trasferimento dallo Stato del riparto dello stanziamento extra per la sanità. Nella fotonotizia asfaltature notturne in piazzale 26 luglio, scusate il disagio, si legge nei cartelli appesi in zona fino a venerdì, macchinari in azione tra le 21 e le 6. Di spalla il sigillo di Udine consegnato allo chef Scarello e sotto irregolarità nei registri, commissariata la riserva di caccia di Paluzza. Poi a New York il successo di due giovanissimi musicisti friulani, Cristiano Brusini di Pozzuolo e Nicola Zanier di Tarcento, con sax e tombra al Carnegie Hall per una competizione internazionale. In taglio alto, con le imprese a rischio per l'impennata dei prezzi di luce e gas, anche la proposta del senatore di Fratelli d'Italia Menia sulla lingua italiana nella Costituzione: non serve insegnare il friulano a scuola, si legge. Frane, 8.000 persone in pericolo, il Gazzettino d'Orso del Friuli apre sul rischio idrogeologico in regione dopo la frana di Ischia, nella fotonotizia scoperte le terme Gioiello di Aquileia. Poi l'automobilista svizzero che sabato è stato fermato in A4 quando andava quasi 200 km orari di spalla, le maxi bollette che mettono a rischio quasi 18.000 imprese e la colletta alimentare, leggera flessione nella raccolta. L'apertura del piccolo di Gorizia e Monfalcone è dedicata alla sentenza del Tribunale Civile che dichiara fallita l'impresa Comar, nominato il curatore per la società edile di Monfalcone. Il 15 marzo 2023 la verifica del passivo con i creditori. I titoli di cronaca di spalla: terza proroga per i lavori di bonifica della Valletta del Corno, slitta al 9 marzo, la chiusura dell'intervento di riqualificazione dell'area verde. Deve essere avviato un piano di coordinamento con la Slovenia contro le piene. E poi ancora leggiamo altri titoletti di cronaca: la rissa sugli spalti, San Giovanni deciso a presentare denuncia e la spiaggia di Grado, sabbia divorata dalla mareggiata. Nelle pagine interne, dopo gli incendi estivi, il Carso si ripopola di alberi, messe a dimora 200 essenze. Il piano di rigenerazione arborea del comune di Monfalcone prevede 1500 piantumazioni, piante invasive sostituite da quelle autoctone, con attenzione alla biodiversità. Sul Gazzettino d'Orso di Pordenone un titolo per Electrolux: a Porcie su Segana, in Veneto vanno a casa in 100. In totale in Italia gli esuberi sono 222, nel precedente incontro il gruppo ne aveva annunciati 300. Nella fotonotizia, i mondiali in Qatar stasera si giocherà USA-Iran 13 anni dopo la Gallini Cup ad Aviano. In taglio basso il calcio: nero-verdi di nuovo in campo domani al Teghil di Lignano contro la Propatria. Accanto Chiara Selva, Maniana Ghese, Niccolò Marzinotto di Fiume Veneto, protagonisti della sesta tappa del trofeo Triveneto di ciclocross. Taglia Electrolux anche a Porcia Organico Ridotto e l'apertura del Messaggero Veneto di Pordenone, mercato degli elettrodomestici in crisi. Nella fotonotizia la platea di volontari della Protezione Civile Alverdi Pordenone e i soccorritori della grande alluvione, 20 anni di gratitudine. Di spalla no in municipio a Pasiano, il sindaco sposa una consigliera e la ex sede del demanio a Sacile supermulta al gruppo Alpini da 7.000 euro. 29 artisti tra pittori triestini di altre città d'Italia e stranieri sono i protagonisti della 23esima edizione della mostra La bellezza per la bontà, l'arte aiuta la vita, organizzata a favore del premio alla bontà Hazel Marie Cole Onlus. La rassegna si inaugura alle 18 alla Sala Xenia della comunità greca orientale di Trieste. Riccardo Illi presenta il libro L'arte dei prodotti eccellenti. Illi ci conduce all'interno della sua attività attraverso l'esempio, raccogliendo le testimonianze di altre aziende a conduzione familiare che hanno fatto la storia del business italiano e internazionale, alla libreria Lovat a Trieste alle 18. Ponte Rosso Memorie, il progetto monografico nato da un'idea di Wendy D'Ercole e Massimiliano Schiozzi per affrontare e conoscere una parte della storia della città attraverso i luoghi e le memorie della Trieste di confine tra gli anni 60 e 80. Si comincia oggi alle 18 al Cavò in Cavana, Trieste, che fino al 10 gennaio sarà la sede per una serie di interviste ad alcuni testimoni degli anni d'oro del commercio triestino nell'ambito di un ricco calendario di incontri, proiezioni e laboratori. Oltre il filo, il docufilm di Dorino Minigutti, che rievoca la deportazione di molte persone, in maggioranza sloveni ma anche croati ed ebrei, nel campo di concentramento di Arbe, Rabe, poi a Gonaro, NARS a seguito dell'invasione italiana del 41 in Jugoslavia. La narrazione per immagini riprende le memorie dei sopravvissuti con grande efficacia e sobrietà. L'incontro si terrà al Circolo della Stampa di Trieste alle 17 e si inserisce nel progetto Il confine dentro, dentro il confine. L'ingresso è libero. Autismo, gravidanza fisiologica, inclusione sociale e salute mentale sono questi i temi degli interventi che compongono l'evento finale del progetto Salute Zdravstvo del gruppo europeo di cooperazione territoriale di Gorizia e finanziato nell'ambito del programma Interreg Italia-Slovenia 2014-2020 dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dei fondi nazionali. La giornata avrà inizio alle 9 presso la Sala Pinta dell'Hotel Perla, Nova Gorizia. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vueo Fevelindi parlerà degli eco investimenti effettuati già dal 38,7% delle imprese nell'ultimo quinquennio in regione con un valore di un punto superiore a quello medio italiano, un processo che ha interessato anche la filiera del legno arredo. Alle 11.20 a Radar, giochi, videogiochi e potenzialità didattiche, poi il libro della bellezza, il mito della bellezza, scusate, di Naomi Wolf e la rubrica Almanacco scientifico di Davide Montesarchio. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. In regia Bruno Montevecchi e Tommaso Vinoni, in redazione ha collaborato Manuel Bussani. Deva Ciucca e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.